La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte. Sbornia. La stagione che stiamo vivendo non è il frutto di una crisi congiunturale, non è leggibile con la teoria dei cicli, ma è il frutto dell'autoespansione del capitale. Una delle novità più grandi è la rottura del blocco sociale dominante. L'attacco alla piccola e media borghesia è di classe, nel senso compiuto del termine, cioè alle loro condizioni materiali di vita. Ci troviamo di fronte a un passaggio irreversibile ed è pia illusione quella di coloro che pensano che dopo la tempesta tornerà la quiete. Dopo ci troveremo molto più povere, poveri e molto meno libere e libere di ieri. Da qui l'inconsistenza, e questo sarebbe il male minore, ma soprattutto la falsità, di una lotta impostata contro l'illegalità e l'evasione fiscale, addirittura elevate a strumenti di rinascita economica che dovrebbero far ripartire il volano della redistribuzione delle ricchezze. Secondo queste buontemponi, i proventi recuperati dalla lotta contro l'evasione fiscale e l'economia illegale in genere dovrebbero essere usati per i lavoratori e le lavoratrici. Ma il racconto dell'economia legale, quello delle tasse regolarmente pagate dalla maggioranza delle cittadine e cittadini, non viene usato per questo, per non parlare dell'utilizzo del plusvalore che pure viene prodotto in grande misura. E comunque ci viene detto che tutto quello che si potrebbe recuperare dovrebbe essere usato prima di tutto per ripianare il debito, maniera elegante per dire che queste ricchezze andranno dirottate alle banche e non a ricostituire lo stato sociale smantellato, nemmeno a livello di buoni propositi. Ma cosa aspettarsi da chi ci racconta che la popolazione è vissuta al di sopra delle proprie possibilità? Quando è palese che sono le risorse sottratte alle pensioni, alla scuola, alla sanità, allo stato sociale che arricchiscono sempre di più le multinazionali e l'iperborghesia. Così come a livello internazionale sono i popoli del terzo mondo che vengono sfruttati per mantenere lo strapotere delle multinazionali occidentali. Questa sì una violazione della legalità internazionale con le guerre umanitarie, i colpi di Stato e le aggressioni militari. In campo nazionale la legalità si misura con lo smantellamento dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, con le riforme che permettono licenziamenti senza giusta causa, senza obbligo di reintegro, con l'accesso sempre più difficile e selettivo all'istruzione, con il diritto alla casa sempre più vanificato. La retorica della legalità è un falso perché parte dal presupposto infondato e vanificato ogni giorno che la legge sia uguale per tutte e per tutti. Non dobbiamo impegnarci per il suo rispetto, ma in una prassi di lotta nei luoghi di lavoro e nella società. Dobbiamo evitare accuratamente di unirci alla canea di quelle e di quelli che condannano e condanneranno le pratiche di illegalità, cioè non pagare le tasse, non pagare il biglietto del treno e dell'autobus, non pagare le utenze, rubare nei supermercati, fare i picchetti contro i crumiri e contro le imprese, resistere alla repressione della polizia, occupare le case, in parole povere, illegalità diffusa. Da qui l'oscenità del principio per cui dovrebbero andare in Parlamento solo gli incensurati e le incensurate, cioè Monti, Montezemolo, Fornero, Bersani, e non i lavoratori e le lavoratrici, o gli studenti o le studentesse arrestati durante gli scontri con la polizia per difendere il posto di lavoro, la casa, la scuola, l'ospedale, il territorio, non la madre di famiglia o il pensionato che rubano al supermercato. Il risultato? Chi è il responsabile e ha provocato tutto questo va in Parlamento e dovrebbe rappresentarci, e chi applica la pena di morte extra legem è legittimato ed assolto preventivamente, perché la difesa della proprietà privata è più importante del diritto di sfamarsi. Noi diciamo che l'illegalità è un diritto. Col richiamo a prescindere alla legalità si omettono a pie pari i problemi sociali e le conseguenze che ne derivano, così come l'immigrazione e la violenza sulle donne vengono relegate al tema della sicurezza. Si annulla completamente il rapporto con le condizioni materiali di vita, salario, casa, pensioni, sanità, scuola, si barattano con una condizione immateriale, la legalità. Siamo in piena sbornia idealista. Ne deriva l'appello a principi etici avulsi da ogni rapporto con le condizioni effettive di vita e si sdoganano improbabili movimenti di varia natura, arancioni, viola, popoli della rete, se non ora quando, ed è un proliferare di rivoluzioni civili, etiche, sociali, necessarie. Così facendo, non solo hanno contribuito alla scomparsa della sinistra, il che non sarebbe grave se fosse propedeutico alla nascita di una sinistra di classe, ma soprattutto hanno creato lo spazio per ogni forma di pulsione reazionaria. E siccome la politica è un piano inclinato, l'ultima moda si manifesta nel venire della società civile, nel non essere compromessi con il passato. Ma le persone sempre da qualche parte vengono e soprattutto da qualche parte stanno. Non siamo nate e nati oggi, ma con Spartaco, con le lotte contro lo schiavismo, contro il colonialismo, contro il patriarcato, nelle lotte delle donne e degli uomini contro lo sfruttamento. Siamo figli e figli delle rivoluzioni sociali. E se ci dicono che l'ideologia non esiste, che la lotta di classe è superata, che la storia è finita, è perché l'iperborghesia vuole riservarle solo a sé. Ma questo patrimonio ci appartiene, sono le nostre carte di navigazione, ci servono e non abbiamo nessuna intenzione di regalarle a chi che sia. Ciao.